少年，sta in fronte a te, sta in fronte a te, che bella cosa, sta giornata sola, l'aria serena, dopo una tempesta, che aria fresca, sta giornata bella, che bella cosa è una giornata sola. Ma nato solo, più bello è ne, o solo mio, sta in fronte a te. Sola mia, sta in fronte a te, sta in fronte.